quella di chi non è fatto come te, e ti allontani da chi non la pensa come te. Rimani piccolo nella tua isola, uomo di Lilliput. Tu guardi il mare che si muove lì davanti a te, e per timore poi non vuoi che il mare guardi te. Consapevole di avere un'anima, e i giorni passano, col tempo crescere diventa più difficile, e finché avrai paura non saprai mai il limite fra il sogno e la realtà. Le bugie saranno verità, raccontarti favole facile, uomo troppo prigioniero di fantasmi di frontiera. Prova un giorno a chiederti perché vedi in me un nemico che non c'è. Tu che per un gioco un po' perverso perdi il meglio che c'è in te. Lucro di seta è la tua isola, e tu non vuoi uscirne fuori come fanno le farfalle, che sono splendide quando si librano. E i giorni passano, col tempo crescere diventa più difficile, e finché avrai paura non saprai mai il limite fra il sogno e la realtà. E saranno verità, raccontarti favole è più facile, uomo troppo prigioniero di fantasmi di frontiera. Che c'è in te.